Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:09, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di cosa parleremo oggi? Torneremo sulla situazione europea perché insomma è necessario senza dubbio fare un punto tanto su quel che sta succedendo in Spagna con un deficit che è decisamente superiore a quanto prospettato dal precedente governo e si addensano domande e anche critiche dai vertici della Commissione europea e anche dalla Germania, mentre ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la Grecia, perché iniziano ad arrivare le prime adesioni da parte dei creditori privati, mentre ci sono minacce di default vero e proprio dagli stessi vertici politici greci in caso di mancata adesione, appunto, dei creditori privati. Parleremo di questo, ma apriremo con un tema, ogni tanto lo sapete, ci ritorniamo su questi temi perché comunque se ne dibatte. Ieri è stata una giornata di iniziativa non solo nazionale ma internazionale da parte di una fetta dei sindacati e da parte della Chiesa, o meglio delle Chiese cristiane, di una gran parte delle Chiese cristiane, quella cattolica in primis, contro il lavoro e lo shopping domenicale. Ora, come sapete, con il decreto liberalizzazioni è arrivata la possibilità di aprire i negozi, di tenere aperti i negozi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e naturalmente anche su questo ci sono dei dubbi. Sentiremo le due campane su questo tema, ossia il sindacato e la grande distribuzione. Poi faremo anche un bilancio, i dati sono stati diffusi nei giorni scorsi, ma ci sono anche degli elementi interessanti per quanto riguarda soprattutto il credito, sul come è andato l'anno per l'industria alimentare italiana, anno che non è andato particolarmente bene, è così per tutti i settori industriali, in realtà l'alimentare di solito è essenzialmente anticiclico, cioè non segue i cicli dell'economia o li segue molto meno, eppure insomma anche l'anno appena trascorso non è andato bene per l'industria alimentare, si prospetta a quanto pare un altro anno difficile. Ovviamente parleremo di mercati, la giornata è negativa, è partita male già stamattina, è lievemente peggiorata, adesso c'è un parziale miglioramento, comunque il FTSE MIB cede lo 0,6%, il FTSE All Share mezzo punto percentuale, con Parigi che scende dello 0,3, Francoforte dello 0,7 e l'America di mezzo punto percentuale. Questo il quadro generale, i temi che affronteremo oggi. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve. Iniziamo dall'oro, il lingotto è stabile, un più 0,2% a 1713,7 dollari l'oncia. Aperto il rialzo invece il petrolio a New York a 106,84 dollari al barile, le quotazioni salgono di 14 centesimi. Da segnalare nel fine settimana i record per la benzina, la verde a 1,827 euro al litro. Kuwait ha rialzato di 0,5 centesimi, Tamoil altrettanto e di 0,3 il diesel, Shell di un centesimo entrambi i prodotti. Il record è di Tamoil. Il record è quello che vi dicevamo prima, di 1,827 euro al litro. Si è parlato nelle settimane scorse dei rischi per la Cina, per la crescita cinese. Anche la Banca Mondiale ha lanciato una sorta di allarme. L'obiettivo della Cina è una crescita del 7,5% nel 2012, lo ha detto il premier Wen Jiabao nel rapporto sul lavoro del governo, presentato oggi agli oltre 7.000 deputati dell'Assemblea Nazionale del Popolo. Per il 2011 e negli anni precedenti Wen aveva fissato all'8% il ritmo di crescita ideale. Dalla Banca Centrale Europea arriva la notizia che c'è un nuovo record dei depositi overnight delle banche presso la BCE. Venerdì sera, comunica Francoforte, i depositi hanno raggiunto il massimo storico di 820,8 miliardi di euro dai 776,9 miliardi del giorno prima. Quindi questo è il quadro di quanti soldi le banche europee parcheggiano presso la BCE. Si diceva della Grecia. La Grecia, in assenza di un'adesione volontaria al piano di concambio del debito, è pronta ad utilizzare clausole di azione collettiva che imporrebbero automaticamente le perdite ai creditori. A dirlo è stato il ministro delle Finanze, Evangelos Venizelos. L'ipotesi evocata naturalmente avvicina sempre più Atene al default. Nel frattempo si sa che finora sono stati 12 i creditori membri dell'Institute for International Finance, che li raggruppa, che parteciperanno all'operazione di swap del debito con Atene. Fra i partecipanti ci sono, tra gli altri, Intesa San Paolo, Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas e ING. Per quanto riguarda, vi abbiamo dato il quadro sui mercati, vi diamo anche come sempre quello sullo spread, sulla differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, è oggi a 311 punti. Quello tra Spagna e Germania è intorno ai 317. Venerdì scorso il differenziale dell'Italia nei confronti della Spagna era diventato positivo per la prima volta da agosto. E proprio a proposito di Spagna, come si diceva, è l'altro punto che sta diventando critico nelle vicende europee, fronte di tensione tra la Commissione e Madrid, ma anche tra la Germania e Madrid. La deviazione dal target di deficit della Spagna è grave, dice il portavoce del commissario europeo agli affari economici Olli Rehn. A novembre era stato comunicato uno scostamento del 2%, ora è diventato del 2,5%. La situazione spagnola non è comparabile a quella della Grecia. Grecia, dice comunque, e per fortuna, il portavoce di Rehn. La Spagna, dice sempre il portavoce di Rehn, deve rispettare gli obiettivi di deficit concordati, mentre il premier Mariano Rajoy ha detto che il paese andrà oltre l'obiettivo previsto. Molto secca anche Berlino, nessuna flessibilità sugli obiettivi del deficit di Madrid. Quello che conta, dice il portavoce della Merkel, è la firma al Fiscal Compact, che fra gli altri paesi europei è stata messa anche da Germania e Spagna. Ancora dall'Europa, apprezzamento del commissario europeo, coordinatore del progetto europeo di cui fa parte la Torino-Lione, per la determinazione del governo Monti, e parliamo della TAV naturalmente, mentre insomma stanno circolando voci secondo le quali il governo sarebbe pronto a varare 20 milioni in compensazioni per appunto realizzare l'opera nel prossimo CIPE. E poi ci sono i dati dall'Italia, quelli che arrivano dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia. Nel 2011 le entrate totali ammontano a 411.790 milioni di euro, è una crescita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Sono 4,8 miliardi di entrate in più. E altri dati interessanti: dal 2007 al 31 dicembre 2011 sono state individuate dall'Agenzia del Territorio oltre 1 milione di case fantasma, cioè sono unità immobiliari mai dichiarate. Dalle abitazioni ai magazzini, alle auto rimesse, a questi fabbricati mai dichiarati l'Agenzia ha attribuito una rendita, definitiva o presunta, pari a 817 milioni di euro. Ai fini IMU varrebbero circa 356 milioni di euro, secondo l'agenzia. Si è parlato anche molto di Fiat, come si fa sempre in queste ore. Tra l'altro siamo alla vigilia dell'apertura del Salone di Ginevra, domani ne parleremo naturalmente. Arriva un comunicato del ministro del welfare, Elsa Fornero, dice che ha parlato con Sergio Marchionne e John Elkann. Ho avuto da entrambi l'assicurazione che le notizie di stampa circa la chiusura di stabilimenti in Italia sono destituite di fondamento. Di cosa si era parlato in queste ore? Della possibile chiusura di Pomigliano e Mirafiori. Arriva a rafforzare la dichiarazione della Fornero del ministro Fornero la dichiarazione della stessa Fiat: non esiste alcun piano di chiusura di impianti in Italia, lo ha precisato Fiat in un comunicato. E veniamo a questo primo tema di giornata, ossia le liberalizzazioni a confronto con la domenica. Cosa è successo ieri? Che ieri era la giornata europea per le domeniche libere dal lavoro, promossa dalla European Sunday Alliance, una rete di organizzazioni sindacali, associazioni civili e religiose che puntano la loro attività sul rispetto dei tempi di vita e di lavoro, così dicono, alla quale hanno aderito anche Filcams, Fisascat e Wiltux, le tre categorie del commercio di CGIL, CISL e UIL. Ricordiamo che il decreto Salva Italia prevede la possibilità di aperture 24 ore su 24, compresa la domenica, per molti esercizi commerciali. E ospitiamo le due campane, Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Federdistribuzione, buongiorno. Buongiorno a voi. Anzi, buonasera, in realtà è Franco Martini, segretario generale di Filcams CGIL e quindi tra gli aderenti alla giornata di ieri. Buonasera Martini. Buonasera. Allora, partirei proprio da lei perché insomma la questione parte da voi. Da segnalare che al momento sono 4 milioni e mezzo gli italiani che lavorano almeno una domenica al mese. Al primo posto per domeniche lavorate ci sono in percentuale naturalmente dipendenti di alberghi e ristoranti, seguono pubblica amministrazione, che però tiene dentro anche la difesa naturalmente, i servizi sociali e così via, poi ci sono gli addetti del commercio e i dipendenti delle aziende di trasporto, invece è quasi sconosciuta la domenica lavorata ai dipendenti di banche e finanziarie. Allora, Martini, partirei da lei e le chiederei di aiutarci a capire un po' meglio questa cosa. Insomma, ci sono tantissimi lavoratori che lavorano anche la domenica, naturalmente alberghi e ristoranti, ma vogliamo citare per esempio chi lavora nei cinema, tanto per fare un esempio di un classico intrattenimento domenicale, chi lavora nei teatri, non parlo degli attori ma parlo di chi banalmente stacca i biglietti. Allora, perché proprio questa battaglia per i commessi dei negozi? Ma guardi, in discussione non è il lavoro domenicale in quanto tale, perché il lavoro domenicale nel settore distributivo da molti anni è regolamentato dai contratti e da norme regionali e da delibere comunali, quindi è un falso problema sostenere che questa iniziativa sia contro il lavoro domenicale. Le liberalizzazioni hanno scardinato questa possibilità che hanno le lavoratrici e i lavoratori, attraverso i contratti e nel rispetto delle norme esistenti, di poter programmare i propri tempi di vita e di lavoro, conciliando l'uno e l'altro. Quindi c'è questo primo aspetto, tanto più che gli obiettivi ai quali il decreto dice di ispirarsi, e cioè crescita dei consumi e maggiore occupazione, in tutta onestà, sono delle buone intenzioni, ma non si realizzeranno, perché il presidente Gobolli Cigli sa bene che le aziende che lui rappresenta ci stanno chiedendo in questo momento molta cassa integrazione, ci stanno chiedendo di fare accordi per gestire la riduzione del personale, perché sono in crisi per effetto del calo dei consumi, e ci hanno già detto che intendono avvalersi di questa opportunità senza costi aggiuntivi. Questo significa che il disagio aggiuntivo delle liberalizzazioni si scaricherà interamente, in gran parte, sulle lavoratrici e i lavoratori che già sono dipendenti di queste aziende. Questa è la verità, che tra l'altro io inviterei tutti a verificare con molta obiettività. Poi ovviamente c'è il tratto culturale, che il valore della domenica, la giornata di riposo, sul quale possiamo discutere anche successivamente. Vabbè, quello naturalmente è un discorso che... Se vuole poi a un certo punto tocchiamo, però come dire, non attiene esattamente ad una trasmissione di questo tipo. Vi ricordo il 349-238-6666 per i vostri sms, e chiedo a questo punto, visto che è stato chiamato in causa, a Giovanni Cobolli Cigli, lo ricordiamo, presidente di Feder Distribuzione, insomma, se lo scenario tratteggiato da Martini risponde a verità. Allora, innanzitutto saluto Martini, a cui mi lega un'indissolubile diversità di posizione. Salve Presidente, ci incontriamo sempre in questo ring. Nel rispetto e nella simpatia reciproca, ma insomma ognuno deve recitare il suo ruolo e ognuno crede al suo ruolo. Martini crede a quello che dice e io credo a quello che dico. Io ieri sono stato in alcuni centri commerciali ed erano tutti pieni, sono stati in negozi del centro città ed erano tutti pieni, e ho visto cittadini italiani, cioè quei 60 milioni di persone a cui noi ci rivolgiamo, che erano contenti e che apprezzavano le nostre aperture domenicali. Quindi questo credo che sia un punto di partenza non irrilevante. L'altro è che quando si parla di liberalizzazioni non si parla necessariamente di obbligo di aprire, si parla di libertà di prendere delle decisioni imprenditoriali. Quindi, paradossalmente parlando, io dico, si può anche prendere la libertà di aprire una domenica e di chiudere un lunedì o un martedì, come fanno molti negozi, perché si cerca di scegliere quello che è il momento più opportuno per offrire ai cittadini italiani, che sono la nostra clientela, le migliori opportunità di acquisto. E io credo che aver introdotto la possibilità alle aziende di poter prendere in libertà le loro decisioni, evidentemente nel rispetto di quelle che sono gli obblighi previsti dal contratto di lavoro, dovrebbe portare un maggior vantaggio anche per i lavoratori, perché comunque in termini di programmazione dovrebbe dare ai lavoratori una maggior tranquillità per sapere quelli che sono i giorni di lavoro domenicali e quelli che non saranno i giorni di lavoro domenicale. E quindi credo che in questo senso questo fatto sia un fatto che dia maggior certezza. Chiarissimo. L'altra considerazione è una considerazione di natura economica. Si creano comunque maggiori ore lavorabili e queste ore lavorabili sono sottoposte a una retribuzione maggiorata e fiscalmente più vantaggiosa, e questo credo che in un momento di difficoltà economica per le famiglie sia un fatto anch'esso estremamente importante. Allora, i due elementi, Martini, lo ricordiamo, Franco Martini, segretario generale di FILCAMS CGL, i due elementi. Il primo è quello della programmazione, insomma, che lei diceva, ci diceva in sostanza, i dipendenti non possono programmare. In realtà immagino che sia abbastanza raro che ti dicano il sabato che la domenica devi venire a lavorare, salvo che non ci siano delle emergenze. Presumibilmente la cosa è organizzata sulla base di turni, specialmente in realtà grandi come i centri commerciali. Questo da una parte. E dall'altra parte poi non c'è una maggiorazione di stipendio nel lavorare la domenica. Allora, con molta simpatia vorrei sentire il Presidente Cobolli Cigli sulla base del dato della realtà, perché noi tutti i giorni siamo all'interno delle aziende di cui stiamo parlando, che sono soprattutto quelle della grande distribuzione organizzata. Caro Presidente, lei lo sa benissimo che già alcune aziende ci hanno detto che le maggiori aperture domenicali rappresentano un costo aggiuntivo per le aziende, tra l'altro astenendomi sul concetto di felicità degli italiani che vanno ai centri commerciali, perché abbiamo detto che non è questo il tema, però io vorrei capire alla sera lo scarto che gli scontrini di cassa hanno registrato rispetto all'incremento dei consumi. Le aziende ci dicono che questi costi, che sono aggiuntivi, probabilmente saranno sempre meno compatibili con le maggiorazioni per il lavoro domenicale che noi abbiamo normato attraverso gli accordi aziendali fatti all'interno di queste aziende. Lei lo sa bene che vengono messi in discussione, perché dalla maggiorazione prevista dal contratto nazionale a quelle realizzate con gli accordi di secondo livello, questi secondi sono sempre più incompatibili con i costi aggiuntivi. Dopodiché la programmazione... Mi scusi Martini, infatti... per stringere, lei dice che le aziende vi stanno dicendo che la crescita delle vendite che c'è con l'apertura domenicale, di fatto non, il gioco non vale la candela. Ma perché certo, possiamo documentarla questa devo pagare cosa, di più, devo pagare di più i dipendenti perché lavorano di domenica, e però appunto le vendite non mi consentono di coprirlo. Allora ci fermiamo un attimo e riprendiamo subito dopo una pausa. Le 17:36 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Sul tema delle aperture domenicali, dopo il decreto Salva Italia che ha consentito per i negozi l'apertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, c'è stata ieri un'iniziativa, ed è di questo che stiamo parlando, contro le aperture domenicali da una serie di organizzazioni religiose e sindacali. Al 349-238-6666 ci stanno arrivando testimonianze e non solo, ci scrive Pierluigi per esempio: mia moglie lavora tutti i sabati e 36 domeniche con una piccola maggiorazione e c'è di peggio. Chi dice invece che non si lamenta, però c'è una domanda che io a questo punto devo fare a Franco Martini, segretario generale di Filcams CGL. Voi dite che alle aziende di fatto non conviene, dunque se viene lasciata libertà e quindi queste aziende possono fare come gli pare, aprire, non aprire, restare chiuse, non restare chiuse, a voi che cosa cambia? Cioè che differenza c'è? Bisogna fare rispondere alla moglie di quel signore che ha mandato una mail. Bisogna partire dal presupposto che una lavoratrice o un lavoratore, ma la maggior parte sono lavoratrici, dovrebbe sapere quante domeniche gli tocca lavorare nel corso dell'anno. Per questo noi siamo per la programmazione delle aperture, insisto, non contrari in assoluto, siamo per programmarle, va bene? È chiaro che se aumentano le domeniche lavorative, i casi sono due: o aumentano le persone addette, quindi aumentano gli occupati, si fanno nuove assunzioni, oppure è chiaro che queste maggiori domeniche tornano sulle spalle di chi già fa quelle che abbiamo programmato. Cioè la matematica non è un'opinione, per cui tra aprire 52 domeniche l'anno disponendo di un numero sufficiente di lavoratrici e lavoratori per poter programmare i turni o avendone meno a disposizione, è chiaro che c'è una ricaduta, questo è del tutto evidente, e la convenienza per le aziende va misurata in relazione a quella che è la seria crisi che sta attraversando il consumo in Italia. Quando noi diciamo che il gioco non vale la candela, è perché purtroppo lo vediamo. Però quello che dico, mi scusi Martini, può non valere adesso, ma magari tra due anni può valere se il paese si riprende. Tra due anni può valere, infatti insisto, correggendo ancora una volta quello che lei ha detto in apertura della seconda parte, non è contro il lavoro la domenica, è contro una forma di liberalizzazione che è vero, come ricordava il Presidente, è una opportunità, infatti io sarei per coglierla come opportunità e programmarla, va bene, ma rischia, se non è sostenuta da un potenziamento degli organici, va bene, rischia di ricadere su quelli che sono, e al momento attuale le aziende, lo ripeto, non stanno assumendo, stanno riducendo il personale, ci stanno chiedendo cassa integrazione. Questo è davanti agli occhi, di tutti. Possiamo fare un elenco di nomi noti ai consumatori, di catene distributive note, perché sono quelle che stanno intorno alle nostre città. Su quasi tutte queste aziende abbiamo delle problematiche aperte, questa è la realtà, purtroppo. Allora chiuderei con Giovanni Cobolli Gigli, che è stato chiamato in casa in causa in quanto rappresentante della parte datoriale e del settore della grande distribuzione, proprio su questi temi qua, sulla convenienza che effettivamente hanno le aziende. Ci scrive per esempio un altro ascoltatore, o un'ascoltatrice, un ascoltatore, Giulia. Giuliano dice, sui costi in effetti le compagnie tendono ad annullare i bonus, la mia conteggia la maggiorazione su una tabella che è il 16% in meno di quella del livello corrispondente, e quindi c'è anche forse qualche rischio di riequilibrio di questo genere, secondo lei? Guardi, c'è un contratto di lavoro che prevede una maggiorazione del 30% per i lavori fatti in periodo festivo, in più questo 30% è sottoposto a una tassazione agevolata del 10%. Noi vogliamo lavorare per cercare di ottenere che anche la retribuzione ordinaria del lavoro domenicale sia sottoposta a tassazione agevolata, e vogliamo proporre che nel caso ci sia un nucleo familiare, cioè un marito e una moglie, che lavori la domenica, anche in questo caso ci sia una tassazione agevolata. Questo perché siamo convinti che comunque provare a lavorare la domenica è importante per il settore della distribuzione in un'ottica prospettica. Cosa vorreste? Mi scusi Presidente, mi scusi la interrompo. Quello che vorreste voi è uno sgravio fiscale sul lavoro domenicale, in sostanza? Sì, così come già c'è uno sgravio fiscale per la maggiorazione, vorremmo proporre anche che la retribuzione ordinaria del lavoro domenicale fosse sottoposta al 10% di tassazione. Questa è una soluzione che dovrebbe portare maggior possibilità di reddito netto nelle tasche dei lavoratori, e credo che in questo momento comunque il problema del reddito non sia un problema irrilevante. Così come non sono affatto convinto che con le domeniche possano aumentare i consumi, sono convinto che con le aperture domenicali si possa portare un freno ai cali dei consumi. E chi sa fare bene il proprio mestiere la domenica può cercare di andare a convincere i clienti di comprare qualche cosa rinunciando ad altri tipi di consumi voluttuari, alberghi, ristoranti, viaggi, la cura della persona, auto, tessuti, sport, spettacoli. Andrò una volta meno al cinema e comprerò qualche bene commercializzabile di più. E quindi il nostro settore, quello nel quale lavorano i suoi associati e lavorano i nostri 350.000 dipendenti, potrà leggermente riprendersi da quella che è una crisi dei consumi dei beni commercializzabili, che ha portato a un calo di quota di mercato dal 91 al 2010 dal 38,9% al 23,9%. Grazie, dobbiamo chiudere qua, anche se ci sarebbe da parlare a lungo, anche su tutti i discorsi ai quali già accennava Franco Martini, segretario generale di Ficams CGL, che è stato con noi e che saluto, buonasera. Che sono gli aspetti sociali di tempo libero, ma naturalmente queste sono altre questioni. Grazie anche a Giovanni Cobolli Gigli, presidente buonasera, di Federdistribuzione, buonasera. E noi adesso rimaniamo più o meno sullo stesso argomento. Perché c'è anche una di queste storie nel libro che trovate domani in edicola con Il Sole 24 Ore, una storia che arriva dal gruppo Coin, che racconta di aver aumentato i ricavi del 20% tra il 15 gennaio e il 5 febbraio scorso, quando ha potuto aprire di domenica. Questo è quello che ha raccontato Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo veneziano al Sole 24 Ore, che trovate appunto nel libro che esce domani, che è L'anno che ha cambiato la vita degli italiani. Mauro Meazza, che di fatto lo ha curato. Mauro, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che cosa ci troviamo in questo libro? Oltre naturalmente alle questioni del commercio, ci troviamo un po' un punto di tutte le novità, e sono parecchie, che si sono succedute, avvicendate, talvolta contraddette, tra diciamo il maggio-giugno dell'anno scorso per arrivare ai giorni nostri. Cioè molte cose sono cambiate, non so, le tasse sulla casa, le pensioni, il prelievo sui risparmi, gli orari dei negozi. Alcune cose sono in vigore, altre non lo sono, altre forse lo saranno. Noi abbiamo cercato di fare il punto riunendo il tutto in un libro il più possibile agile, naturalmente per dare almeno un'indicazione complessiva a chi magari si fosse un po' perduto in tutto questo labirinto di cambiamenti. Un vero e proprio labirinto di cambiamenti. Resta con noi Mauro, c'è la viabilità, ci ritroviamo subito dopo. Le 17:47 minuti e 20 secondi, tra un attimo andremo ai mercati, giornata che è chiusa negativamente così come si era aperta, meno 0,68% sul FTSE MIB, meno 0,62% sul FTSE All Share, negativa anche il resto d'Europa. Prima chiudiamo con Mauro Meazza, collega del Sole 24 Ore, per parlare del libro che esce domani, L'anno che ha cambiato la vita degli italiani. Mauro, avete messo anche una sorta di pagella per ogni provvedimento, mi sembra di capire. Sì, più di una in realtà, nel senso che per ogni misura, con i vari 8 argomenti che abbiamo individuato, quindi la casa, le pensioni, il commercio, il risparmio e così via, ci sono delle pagelle di impatto e dei giudizi, delle segnalazioni se la norma è già pienamente in vigore, quasi in vigore, non ancora in vigore, non sappiamo quando lo sarà e così via. Di modo che uno possa avere anche una sorta di quadro d'insieme, leggendo queste schede via via, intanto fa un riepilogo, come dire, un ripasso delle regole generali, e poi naturalmente gli articoli servono a tracciare più marcatamente, più precisamente il quadro complessivo. Una guida per separare la polvere dai fatti, titola in apertura di questo libro il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Quindi domani in edicola con il Sole 24 Ore. Grazie a Mauro Meazza e buonasera. Grazie a voi. E adesso andiamo appunto ai mercati. Come si diceva, giornata negativa, meno 0,68% il calo del FTSE MIB, meno 0,62% il FTSE All Share, il CAC 40 a Parigi in calo dello 0,39%, Francoforte, il DAX dello 0,8%, negativa anche l'America di mezzo punto percentuale. Ceo Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. A cosa dobbiamo questi cali? Essenzialmente da una notizia che è arrivata nella prima mattinata, il governo cinese ha deciso quest'anno, per calmierare l'inflazione, di porre un tetto alla crescita, tetto che è stato fissato al 7,5%, è comunque un decremento significativo se si pensa che l'anno scorso l'economia in base alle ultime stime è cresciuta del 9,2%. Poi per quanto riguarda invece il listino milanese, dove le banche come noto hanno un peso molto rilevante, ha inciso anche la recente circolare di Banca Italia che ha invitato i nostri istituti diciamo a distribuire con prudenza eventuali dividendi riferiti all'anno scorso per salvaguardare la patrimonializzazione degli istituti stessi. Sì, infatti sono andate maluccio complessivamente le banche, la Popolare Emilia Romagna del 3,08%, la Popolare di Milano del 2,10%, Mediobanca dell'1,88%, UbiBanca dell'1,32%, il Banco Popolare giù dell'1,25%, Intesa San Paolo in calo dello 0,66% e dello 0,68% Unicredit. Quindi per una volta quel che ci è dato di capire, cioè non sono state le questioni europee, purtroppo per fortuna, a intervenire sui mercati. Nell'assoluto di oggi non particolarmente, anche se comunque tra gli operatori si sottolinea che persiste un timore diffuso sul fatto che la soluzione all'emergenza greca non sia una soluzione strutturale, ma sia l'ennesimo rinvio a un problema che è quello poi della possibile eventuale insolvenza che si riproporrà tra qualche mese. Sì, tra l'altro le parole di oggi del ministro Venizelos che abbiamo citato poco fa lasciano intuire esattamente questo, oppure sono schermaglie per la trattativa con i privati. Comunque ne parleremo più avanti nella seconda parte della trasmissione. Tra i titoli positivi, di Assorin giù su del 2%, Ferragamo dell'1,03% e Campari dello 0,97%. Sì, su Diasorin più 2%, come dicevi, agganciato quota 22 euro, sono fondamentalmente diciamo ricoperture. Il titolo aveva perso parecchio nelle ultime due settimane. Per quanto riguarda invece Campari e Salvatore Ferragamo, si tratta di due titoli che quando i mercati perdono parecchio terreno invece si dimostrano brillanti. Non a caso Ferragamo dall'IPO ha guadagnato, diciamo, ha un bilancio assolutamente positivo, nonostante l'IPO che c'è stata l'anno scorso, nonostante appunto dei mercati decisivi negativi, specie alla fine del 2011. Stesso discorso che per Campari, che addirittura negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, presenta un bilancio di borsa positivo. A proposito di bilanci, ci sono i dati che sta diffondendo in questi minuti Ansaldo STS, meno 23% a 73 milioni l'utile netto 2011, nuovi ordini più 9%, sono dati che tra l'altro sto leggendo dalla stessa rete di Radio Cor Il Sole 24 Ore, 0,20 euro per azione il dividendo sul 2011 e prevede nel 2012 produzione e margini in linea col 2011. Ansaldo è stato tra i titoli positivi della giornata di oggi, anche se non eccessivamente, un guadagno dello 0,21%, Ceo. Sì, guadagnava molto di più in mattinata, poi insomma c'è stata una flessione, sicuramente c'era attesa per questi conti, ma c'è soprattutto attesa per il prossimo consiglio di amministrazione di Finmeccanica, che come noto controlla il 40% del gruppo, che potrebbe avviare appunto la dismissione di questa quota per cercare di mettere una toppa sui conti che già per il 2011 si annunciano molto molto difficili. E quindi insomma le speculazioni del mercato sono chiaramente sulla cessione di questa quota di controllo. E a questo proposito tocchiamo anche il tema di Finmeccanica, che abbiamo detto prima, la Popolare Emilia Romagna è stato il titolo peggiore sul FTSE MIB, un calo del 3,08%, ma subito dopo troviamo proprio Finmeccanica giù del 2,91%. Sì, questo invece è un titolo che è andato male tutta la seduta, gli operatori sicuramente hanno guardato negativamente lo spostamento del consiglio di amministrazione che esaminerà i conti 2011, consiglio che è stato spostato dal 14 al 27 marzo, qui insomma il mercato si è interrogato sulle varie ipotesi che potrebbero spiegare uno spostamento di questo genere. C'è sicuramente, come anticipato al Sole 24 Ore alcuni giorni fa, una grossa pulizia dei conti che verrà effettuata sul gruppo, poi si pensa che dovrà essere messa a punto un piano di cessione, tra cui appunto potrebbe rientrare Ansaldo, e infine c'è chi si interroga su possibili ma non confermati ricambi al vertice. Questo per quanto riguarda Ansaldo. Altro tema, se così vogliamo dire, di giornata sono le utilities, che tutto sommato oggi si sono salvate a 2A, 1,0 e 33%, insomma tutto sommato non sono andate male. No, perché insomma è un settore tradizionalmente che quando la borsa perde regge abbastanza, un settore poi insomma tra virgolette caro ai piccoli risparmiatori, anche perché ha sempre dato cedole interessanti, in questo caso ad esempio Snam più 0,27%, A2A più 0,33%, continua quel processo di crescita che si era che tende a recuperare quanto perso settimana scorsa in quella giornata nera, quando il tentativo di collocare il 5% di A2A da parte di Alpic, tentativo poi fallito, fece crollare il titolo. Questo per quanto riguarda le utilities, mentre invece SEAT pagine gialle, un rialzo mostruoso, no? Sì, assolutamente. Quanto alla fine? Ha fatto più 33,4%, il titolo era già in forte rialzo venerdì scorso, qui la scommessa o la quasi certezza è che i creditori possono dare il via libera alla ristrutturazione del debito e dunque al salvataggio del gruppo. A riguardo possiamo dire che già due categorie su tre dei principali creditori del gruppo hanno sostanzialmente raggiunto il quorum del 75%, quorum che era necessario appunto per procedere di fatto al riscadenzamento di questo debito. Manca una categoria, ma secondo gli operatori è praticamente fatta, quindi il mercato tra virgolette festeggia. Grazie a Ceo Condina di Radio Cor Il Sole 24 Ore, buonasera. Allora, noi andiamo a dare un'occhiata finale a quello che, a quello che troviamo sul listino di A2A. Si è detto anche di Campari e Ferragamo in pregilo su dello 0,31%, Monte dei Paschi dello 0,28%, Snam dello 0,27%, Ansaldo dello 0,21%. Si è detto poco sopra la parità Lottomatica e Telecom Italia, appena sotto Enel e Deni, giù Tods dello 0,13%, Luxottica dello 0,15%, Saipem dello 0,23%, e Fiat giù dello 0,86% e Fiat Industrial di 1,5%. Ci fermiamo, c'è il GR, ci ritroviamo subito dopo, parleremo di industria alimentare e parleremo anche di Europa, Grecia e Spagna. Le 18, 8 minuti e 42 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Vi ricordo come hanno chiuso i mercati: in calo il FTSE MIB dello 0,68%, il FTSE All Share dello 0,62%, negativo anche il resto d'Europa con Francoforte che lascia sul terreno lo 0,8% e l'America che scende di mezzo punto percentuale circa sul Dow Jones e dello 0,82% sul Nasdaq. Questo il quadro di giornata, con una debolezza diffusa per quanto riguarda il listino milanese da parte delle banche, veramente pochi titoli in positivo, di Assorin su tutti un guadagno di 2 punti percentuali, ma bene anche Ferragamo e Campari di circa 1 punto percentuale. Adesso ci occupiamo di industria alimentare. A volte si tende ad avere una visione dell'industria alimentare insomma un po' ristretta, per così dire. In realtà è il secondo settore produttivo italiano dopo la meccanica, sono 127 miliardi di fatturato, di cui 23 destinati all'export. 400.000 addetti circa, distribuiti in 6.350 imprese piccole, medie e grandi. Ebbene, il settore alimentare, un po' come tutti gli altri settori, anche quest'anno non è andato bene, si prospetta un 2011 ancora difficile. Non è un buon segnale, perché normalmente è un settore che va bene anche quando tutto il resto va male. È proprio da questo che siamo partiti nel parlare con Filippo Ferrua, che è presidente di Federalimentare. Anche il settore alimentare, che pure tipicamente per sua natura è un settore anticiclico, in un contesto di crisi generale come quello attuale comincia a vedere anche lì dei segni di sofferenza. Innanzitutto mi riferisco ai dati di produzione, che nel 2011 hanno fatto registrare un meno 1,7%, e questo lo sottolineo perché dal dopoguerra ad oggi questo è avvenuto solo 3 volte, questo quindi è un dato storico che segna particolarmente la situazione di crisi, credo, dei consumi anche delle famiglie italiane, che stanno risparmiando sul cibo, si orientano su degli acquisti meno costosi, e quindi in molti casi sacrificano anche la qualità per il prezzo. Ecco. Il dato positivo invece è quello dell'esportazione. L'esportazione è veramente la valvola di sfogo del settore alimentare. Anche in un anno difficile come il 2011 ha fatto più 10% rispetto all'anno precedente, che insomma è un bel risultato. Ecco, da questo lato mi sembra che l'industria tiri, e voi vi aspettate che anche nel 2012 tiri altrettanto o quasi? Certamente, pensiamo di poter mantenere ancora un buon livello di crescita, se non sarà il 10 sarà il 9, ecco, però abbiamo fiducia sull'esportazione, sì. Invece, dal lato delle preoccupazioni alle quali lei stava accennando, ossia la possibilità dell'incremento dell'IVA che resta sempre in campo e che eventualmente dovrebbe scattare ad ottobre, e poi questa ipotesi di food tax per finanziare la sanità, una sorta di tassa sul cibo più calorico, più pericoloso, se così vogliamo chiamarlo. Insomma, questi sono due fronti di preoccupazione forti per l'industria. Molto molto preoccupanti. Il primo, quello dell'IVA, da solo vuol dire una mazzata da 3 miliardi di euro che peserà quindi sulle teste dei nostri consumatori e non potrà che produrre un ulteriore indebolimento dei consumi, quindi andrà ad accrescere la fase recessiva, non certo quella di rilancio come in qualche modo ci aveva promesso questo governo e di cui ad oggi ancora non vediamo molto. La seconda, quella della food tax, poi per noi, io dico, è una mistificazione, perché parlare di una tassa che sia utile per la salute, quando invece è una tassa e basta. Non si può parlare di cibi di per sé cattivi, si può parlare di una cattiva dieta alimentare, di un cattivo stile di vita, abitudine alimentare, e allora si devono correggere con l'educazione alimentare, con l'informazione ai consumatori, cominciando dalle scuole, dalle famiglie. Questa è la strada su cui tra l'altro Federalimentare è già molto impegnata con dei programmi specifici, sia col Ministero della Salute che col Ministero della Pubblica Istruzione. Ma non parliamo di tasse, perché di tasse ne abbiamo abbastanza, mi pare. Presidente, voi avete anche commissionato un'indagine a Format Research su un campione di 1000 imprese, indagine dalla quale emergono dei dati interessati, in parte anche comuni alle altre imprese italiane, in particolare dal lato del credito. Sì, sul credito abbiamo constatato con soddisfazione che c'è una posizione leggermente migliore per le aziende del nostro settore, nel senso che più del 60% delle aziende che hanno chiesto al sistema creditizio un finanziamento hanno ottenuto il finanziamento richiesto o addirittura una cifra superiore. Praticamente solo il 13% si è visto rifiutare il finanziamento. Quindi positivo da questo punto di vista, naturalmente a costi diversi dal passato, molto più onerosi e con durate probabilmente diverse, quindi con le condizioni generali sono certamente più onerose. E questo naturalmente vale per tutte le imprese, però come avete sentito evidentemente per le imprese alimentari ottenere il credito è evidentemente un po' più facile. La viabilità, ci risentiamo subito dopo e parliamo di Grecia e di Spagna, i due fronti, uno ancora aperto e un altro nuovo nei problemi dell'Europa. Le 18:17 minuti e 45 secondi, parliamo dunque di Grecia, di Spagna e di questioni europee. Inizierei proprio dalla Spagna. Che cosa è successo? È successo che il premier spagnolo Mariano Rajoy venerdì scorso ha di fatto sfidato la Commissione europea e le direttive di Berlino, diciamo così, ma in realtà della Commissione, annunciando per il 2012 un deficit al 5,8%, nettamente superiore al 4,4% concordato dal suo predecessore socialista José Luis Zapatero, e insomma dicendo che nella sostanza avrebbe ignorato, in sostanza dicendo che avrebbe ignorato queste indicazioni. Ora io saluto Luca Veronese, collega del Sole 24 Ore che sta seguendo le vicende spagnole. Luca, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Noi però la prima cosa che ci andiamo a sentire è la voce di Amadeu Altafai, portavoce di Olli Rehn, commissario europeo agli affari economici e monetari, e la risposta agli spagnoli. La posizione della Commissione resta immutata. Riteniamo che la piena attuazione degli obiettivi sui conti pubblici sia una pietra miliare nella risposta alla crisi, specialmente nei paesi sotto osservazione dei mercati, come la Spagna. Gli Stati membri devono continuare a rispettare gli impegni e le regole del patto di stabilità e crescita. Non penso che si possa paragonare la situazione spagnola a quella greca. In Grecia c'è stato un problema di cifre, i dati sul deficit non erano validi. C'è stato bisogno di creare, con l'aiuto di Eurostat, una nuova agenzia statistica nel paese. Fortunatamente, da novembre 2010, le statistiche greche sono in linea con gli standard europei. La Spagna oggi non ha un problema di credibilità dei dati. Non abbiamo motivo di dubitare delle cifre spagnole. Quello che constatiamo è che fino a novembre scorso ci si diceva che la Spagna sarebbe andata un po' al di là degli obiettivi. Il 30 dicembre scorso ci è stato detto che ci sarebbe stato uno scostamento più ampio, del 2%. Ora siamo a 2,5 punti. Quello che diciamo è che bisogna fare luce su ciò che è accaduto in Spagna nel 2011, perché si tratta di una deviazione seria, grave. Dobbiamo sapere l'origine e la natura dello scostamento, se si tratta di un fatto temporaneo o strutturale, e quali misure si intende adottare sul 2012 per rimediare alla situazione. Nous devons savoir l'origine de ces déviations, la nature de ces déviations, est-elle structurelle, est-elle temporaire? Quelles sont les mesures à envisager dans le cadre du budget 2012 pour remédier à cette situation? Et que poi, a parole, Amadeu Altafaj, portavoce di Olli Rehn, dice che Grecia e Spagna non hanno nulla in comune, poi però continua a metterle insieme nella stessa frase. Comunque, probabilmente sarà stata qualche domanda di qualche collega piuttosto maliziosa. Questa posizione sulla Spagna è stata ribadita a Berlino dal portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert. Luca Veronese del Sole 24 Ore, l'impressione è che la Spagna sia stata la prima tra i paesi del sud Europa a tentare di incrinare veramente questa ortodossia tedesca che abbiamo sentito anche dalle parole del portavoce di Rehn. Sì, diciamo che il premier eletto a fine novembre, Mariano Rajoy, il popolare, ha tentato a lungo di convincere la Merkel, prima di tutto, che è un'amica dei popolari spagnoli di lunga data e vicina alle loro posizioni. Il giorno dopo essere stato eletto, Rajoy ha detto che la prima telefonata l'ha fatta al padre, la seconda l'ha fatta anche la Merkel, per capire qual è la priorità, insomma, nel nuovo governo. E fin da subito era chiaro che il nuovo governo spagnolo avrebbe tentato di rendere più flessibile il percorso di rientro e di risanamento. Non c'è riuscito nel modo più assoluto, né con la Merkel, ma neanche con altri, pur avendo incassato alla vigilia del vertice, l'ultimo della settimana scorsa europeo, alcune aperture soprattutto dal Presidente della Commissione Barroso, che aveva detto sì, se ne può discutere assieme Rajoy. In realtà sperava di arrivare con più paesi sul fronte compatto della flessibilità nei dati di deficit, invece si è trovato un po' da solo e ha dovuto appunto annunciare in totale solitudine questa decisione di non rispettare quanto era stato concordato, è vero, da Zapatero, in altra epoca peraltro, quindi non in epoca così difficile dal punto di vista economico, ma anche da lui stesso durante la campagna elettorale e dopo le elezioni. Insomma, diciamo che il deficit è così alto, lo sforamento così forte nei confronti dell'obiettivo di bilancio è una novità dell'ultimo mese e mezzo, e c'è addirittura che a Bruxelles dubita che sia reale, nel senso che c'è il timore in alcuni, ed è uscito anche sui giornali o da fonti della Commissione europea, che il nuovo governo, il governo popolare spagnolo, stiamo un po' facendo il gioco attenti al lupo, aumentando il problema per poi dire che quanto siamo stati bravi nel risanamento. Questo è il punto. Dall'altra parte, ti ripeto, l'impressione è che comunque, nonostante l'amicizia con la Merkel, della quale ci hai testé riferito, è che una certa reazione, una certa insofferenza, se vogliamo, che più di un paese ha manifestato più o meno velatamente in questi mesi, sia emersa in maniera abbastanza plastica, in sofferenza intendo nei confronti della teoria tedesca e della pratica europea. Ah, su questo non c'è dubbio, la stessa Italia, voglio dire, per quanto rispetti e si sia impegnata a fondo con il governo Monti nel risanamento e stia anche ottenendo risultati straordinari, ma sta puntando, sta ribadendo in tutte le occasioni la necessità di guardare alla crescita e questo è l'aspetto buono, diciamo. L'aspetto invece più deteriore della politica e della linea dura che citavi della Germania si vede in Portogallo, un paese letteralmente malato di austerity, cioè un paese che non cresceva da 10 anni, è stato costretto dalla crisi finanziaria internazionale, da molti problemi interni, a operare tagli alla spesa, nuove tasse e quant'altro, quello che abbiamo visto dalla Grecia all'Irlanda, alla Spagna all'Italia, e ora Lisbona e il Portogallo si trovano con un'economia in recessione profonda e quindi senza possibilità ovviamente di raggiungere gli stessi obiettivi di bilancio che vuole la Merkel, perché l'economia che non cresce non ha gettito fiscale, non ha possibilità di recupero. Naturalmente. Saluto anche Vittorio Darold del Sole 24 Ore, frequentemente inviato ad Atene e insomma esperto di tutta la vicenda greca. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Quali sono le notizie di oggi da questo lato? Che finora c'è stato l'ok da parte di 12 creditori privati, fra i partecipanti c'è anche Intesa San Paolo, insomma mettiamola brutalmente, alla riduzione dei loro guadagni, c'è Commerzbank, c'è Deutsche Bank, c'è ING, c'è BNP Paribas, e però nel frattempo il ministro delle finanze Evangelos Venizelos dice: la Grecia, in assenza di un'adesione volontaria al piano di concambio del debito, è pronta a utilizzare le clausole di azione collettiva, quelle che di fatto impongono automaticamente le perdite ai creditori, quindi si va al default. Vittorio, che cos'è? Pretattica, chiamiamola così, o post-tattica in questo caso? No, assolutamente, come dici tu è pretattica, la vicenda è molto complessa e si gioca anche su una partita, diciamo così, psicologica. Il ministro sa che se non raggiunge una quota sufficiente di adesioni, il tanto auspicato PSI, cioè la partecipazione del settore privato a questo taglio del 53,5% del valore facciale dei bond, e quindi a questa ristrutturazione pilotata, ma sempre ristrutturazione si tratta, non ci sarà successo, dovrà far scattare delle clausole collettive. Che cosa significa? Che se non arrivano almeno a una quota sufficiente che possa ridurre il debito greco a una gestione di 120% del PIL nel 2020, che secondo il fondo questo è il dato minimo per poter essere credibile, a quel punto il governo ha fatto approvare al Parlamento delle clausole retroattive che faranno sì che tutti i partecipanti, cioè tutti coloro che hanno dei bond greci, devono partecipare forzatamente a questo swap. Questo naturalmente è una situazione che tutti i governi dell'Eurozona vorrebbero evitare, perché è un meccanismo molto pericoloso. Primo, perché hanno messo delle clausole in modo retroattivo, quindi cambiando le carte in tavola, diciamo così, dopo il gioco. E secondo, tu fai per la prima volta, perché di questo stiamo parlando, per la prima volta fai un'azione che coinvolge forzosamente tutti quanti, anche i piccoli che erano stati fino al momento esclusi. Chiarissimo, grazie a Vittorio Darold e a Luca Veronese, colleghi del Sole 24 Ore, che ci hanno aiutato a capire le due citazioni, quella spagnola e quella greca. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Valeria Bernardi in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.